Spingo i pop sulla track, Simo X, Mad Boys. Porto le rime più affilate delle lame dei rasoi. Se che vuoi, sono qua, con lo stile che ti fotte. Il mio rap come Telemaco, sfascia carrozze. Faccio a botte con la vita tutti i giorni per campare. Pensi e dalle popo, sa che ci si deve arrangiare. Qui si rischia di annegare, serve un salvagente. Saldamente tengo in mente il nome dell'infame come sempre. Io passo e silente, disconnetto d'utente. Odio tutti gli sbirri dal maresciallo al tenente. Vado avanti prepotente, in strada cresci una belfa. Questo MC potente rimarrà leggenda come Zelda. Vivo in mezzo alla merda e la sputo sopra una traccia. Mi fa ridere chi vende 2 grammi e dice che spaccia. Il mio suono ti schiaccia, ormai la scena lo sa. Simo pensi e telema, potrema tutta la città. Noi siamo sempre qua. Siamo sempre qua, siamo sempre qua. Suoni in città. Giro nella city con questi suoni non mi spengo. In giro troppi vampiri, io a fidarmi non ci penso. Giro nella city con questi suoni mi accendo. Ti porto questi suoni fino a che non ti sei spento. Questi suoni di strada sopra la track sono la nostra soundtrack dei nostri sogni di strada. Come disse Ulisse, le sirene le devo sentire. Devo fare tutto in tempo, essere svelto per fuggire. Sono suoni di strada sulla strada che percorri. Quando metti le cuffie e non li ascolti. Quando parli con i morti. Quando pensi solo ai soldi. E se la strada ti ripaga, suoni di colpi. Ci siamo sporti avanti, bisogna restare calmi, usare i guanti per fare i lavori sporchi. E gioco il jolly in questa vita, ho anche un asso nella manica da non buttare via. Sono senza batteria, usa la carica, è una tanica di benza. Sparisci con la prova e la coscienza, anima pesa una lenza. Crema, ne sento l'essenza, perdendo la testa, ma ormai l'ho persa. In ogni senso di appartenenza, senza la residenza. Noi siamo sempre qua. Siamo sempre qua, siamo sempre qua. Suoni in città. Giro nella city con questi suoni non ti spengo. In giro troppi vampiri, io a fidarmi non ci penso. Giro nella city con questi suoni mi accendo. Ti porto questi suoni fino a che non ti sei spento. Top level, stop a questa pagliacciata. Ogni barra è show to flow, never come Nathan. Mike a spada e freddo, do un consiglio rintana. La strada fa da madre per tuo figlio di puttana. Non sono sopra il beat, per il conto in banca. Al verde sulla street, puoi chiamarmi Blanca. Ho credibilità, ma fra non vendo nero. Per essere una star non mi vendo come zero. Pensi che mi fotta, se intralci la mia rotta. La tua fotta, in 2 calci te l'ho rotta. Il mio rap ti porta via. È una freccia casereccia che fa breccia con una porta pia. Questa va chi sogna, via di fuga dalla fogna. Per chi sbologna le sue pare ad un cogna. Per chi ha vergogna del lavoro ma bisogna. Per chi ha l'agonia condannato da ogni rogna. Noi siamo sempre qua. Siamo sempre qua, siamo sempre qua. Suoni in città. Giro nella city con questi suoni non mi spengo. In giro troppi vampiri, io a fidarmi non ci penso. Giro nella city con questi suoni mi accendo. Ti porto questi suoni fino a che non ti sei spento.